nei locali della zona autonoma Milano, dagli studi di Radio ZM, grazie al supporto di A-Club Unit, trasmettiamo in diretta la 14ª puntata di Pillola Rossa. Ragazzi, tra le brutte notizie, noi vorremmo anche quelle belle, ma la puntata è uno speciale su Sanremo. Eh sì, perché non ce se l'aspetta e l'Italia passa anche da qua. Esatto, e quindi vi carichiamo subito. Ragazzi, Nettuno e Belluno vi fa vedere la realtà. Non ve la puppate sulla radio televisione italiana, ma su Radio ZM, direi, con un signor Rossi, dannata, per capire Sanremo. Vado al massimo, vado con fedele, yeah. Ago fedele, oh yeah. Ago fedele, eh. Voglio proprio vedere, e voglio proprio vedere, e voglio proprio vedere come va a finire. Rappresento la multinazionale che vi paga lo stipendio ogni mese. D'ora in poi parlerete solo se vi verrà richiesto. E l'unica frase che uscirà dalle vostre fogne sarà: signor sì signore, grazie dello stipendio che ci doni signore. Tutto chiaro? Signor sì signore, grazie dello stipendio che ci doni signore. Ma che cazzo? O San Precario, protettore di noi, precari della terra, dacci oggi la maternità pagata. Proteggi i dipendenti delle catene commerciali, gli angeli dei call center, le partite IVA e i collaboratori appesi a un filo. Dona loro ferie e contributi pensionistici, reddito e servizi gratuiti e salvali dai lugubri licenziamenti. San Precario, che ci proteggi dal basso nella rete, prega per noi, interinali e cognitari. Porgi presso Pietro, Giacomo, Paolo e i santi tutti la nostra umile supplica. Ricordati delle anime in scadenza di contratto, torturati dalle divinità pagane, libero mercato e flessibilità, che si aggirano incerte, senza futuro né casa, senza pensioni né dignità. Illumina di speranza i lavoratori in nero, dona loro gioia e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Mayday, Mayday. Questa era Giochiarello del 1980. Che brutto affare. Che brutto affare Sanremo o lo speciale? Un po' tutte e due, insomma, abbiamo voluto entrare nella quotidianità che è un po' insomma lo stato della musica allo stato attuale, insomma, che adesso poi avremo anche un modo di confrontarci con il nostro opinion leader, adesso se riusciamo a beccarlo. prima sì. Era Vasco Rossi, il signor Rossi del 1982. Quindi vi rendiamo partecipi dello sprofondo della musica italiana e diamo il nostro contributo per acculturarvi. Abbiamo fatto una selezione, dai, abbiamo fatto una selezione di alcuni pezzi degli ultimi 50 anni di Sanremo, più o meno, che fuoriescono un po' dai soliti Zarrillo e company, ecco. Ha detto delle parolacce, ma noi non sentiamo le parolacce. E a proposito di parolacce, tagliamo un attimo con degli interventi dell'imperatore per tagliare. È sempre un buon contributo. Gabriele, ricordati Voltaire che diceva: io mi batterò per le tue idee fino alla morte. Fino alla morte, le tue idee fino alla morte, le tue idee, anche se sono completamente diverse dalla mia, perché tutti hanno il diritto di dire le proprie idee, di rispettarle, tranne, questo lo aggiunge Sandro Pertini, tranne con i fascisti no, perché non è una fede, non è un diritto, è contro il diritto internazionale, è contro il diritto della vita, quindi non rispetto i fascisti e quelli di destra. Per tutto il resto rispetto, non condivido assolutamente, vado per la mia strada, non mi interessa ciò che mi interessa, ciò che pensano, ma non me ne faccio un cuccio, ragiono con la mia testa, però ripeto, rispetto le idee, qualsiasi idea altrui, l'importante sia che non sia contro l'umanità e contro la vita degli esseri umani o gli esseri viventi. Ok? Ecco, questo è quanto. Un abbraccio, a presto, ciao, ti voglio bene. Allora ragazzi, su più fronti, pillola rossa, e quindi torniamo sul fronte delle Olimpiadi che ha devastato questa nazione ultimamente, alla faccia di tutti coloro che ci hanno speculato. Le ultime notizie dal fronte, Belluno? L'ultima notizia è che sono finite adesso le Olimpiadi, c'è un attimo di pace e adesso devono iniziare le Paralimpiadi. Adesso ti interrompo un attimo, volevo concludere il discorso su Sanremo, che cioè per chiudere il piccolo cerchio, che incredibilmente Sanremo è entrato anche nelle quote della CISL. Scommesse, sì. Cioè c'è la critica, c'è il premio della critica, il premio del pubblico, e ci sono tutti i cantanti quotati da 3 a 300 a 1, insomma. Piccioli soldi, scommesse, quindi è entrato di prepotenza anche lì. E noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo vinto il Festival di Sanremo. Ma che noi poi alla fine, cioè, l'abbiamo visto qualche volta di sfuggita. Io l'ho visto quando loro sono catapultati lì, perché volevo troppo vederli. È il primo gruppo che faceva una certa musica che si è presentato a Sanremo, e loro hanno messo le mani avanti. Hanno vinto il Festival. Gli statuto chiaramente erano, eh? Adesso arrivano. Ci dice festival di Sanremo, abbiamo vinto il festival di Sanremo, abbiamo vinto il festival di Sanremo, che bravi siamo e ci casiamo e ci vogliamo sempre di più. Ora non suoniamo più in cantina, non viaggiamo più in furgone, ora siamo grandi star, che buono è. La canta gli operai, felici sul lavoro, anche i figli a scuola la sanno già cantare in coro. Ora non siamo più senza occupazione, ci han chiamati artisti, adesso chi ci verrà più? Abbiamo vinto il festival di Sanremo, abbiamo vinto il festival di Sanremo, abbiamo vinto il festival di Sanremo, che bravi siamo! Abbiamo vinto il festival di Sanremo, abbiamo vinto il festival di Sanremo. Giulia, poi abbiamo lavorato pure ad Assago. Questo per tanti giorni, sì. Cioè avevi i riposi? Allora, riposo non credo, Riposo devi fare magari, ti chiedono la disponibilità di fare tutti i giorni, poi magari se mai sei stremato chiedi il giorno, magari per carità te lo danno. Gli altri operai cosa dicevano della loro condizione di lavoro all'interno di Santa Giulia, per esempio? Tutti si lamentavano di una roba, c'è chi non aveva il gabbiotto che doveva rimanere di 12 ore al freddo, c'è chi invece doveva rimanere fermo sul posto, non poteva nemmeno spostarsi per anche andare a fare la pipì, era un problema, dovevano aspettare il loro responsabile che gli diceva ok, puoi andare a fare la pipì, e non potevano muoversi, quindi diciamo delle condizioni inaccettabili. O perfino magari prendersi delle stufette in più e sentirsi umiliati davanti a tutti solo perché hai preso una stufetta in più. Tu iniziavi il tuo turno a che ora? Iniziavo alle 7 del mattino. Del mattino fino alle 7 di sera, quindi 12 ore sparate, o alle 7 di sera fino alle 7 del mattino. Pagano l'ora 6,50 euro. Lo stipendio lo monti perché fai 12 ore al giorno, per 7 giorni ci credo che poi prendi uno stipendio, prendi 1800, sì, ma 1800 che finisci il mese che c'ha la testa tutta che consumata. L'azienda vi ha dato una divisa adeguata? O... Ma già, che divisa? Vieni con i tuoi abiti, vieni con i tuoi guanti, pure se la torcia o qualcosa devi portarla a te. Ah, anche quella? Pure quella. Quindi se no il controllo al buio. Controllo al buio. Sì, questo era un audio che riguardava un lavoratore delle Olimpiadi, uno dei tanti lavoratori, se ne è parlato tanto, questo era un vigilante, insomma, è un po' uscito il caso quando è pure morto di freddo un vigilante tempo fa, prima delle Olimpiadi mi sembra. Questo era lo stato dei lavoratori, ne abbiamo parlato la volta scorsa anche riguardo a tutti i volontari a cui era stato detto di portarsi il sacco a pelo per dormire in grandi camerate, posti, e di pagarsi la colazione. E a corollario di tutto questo, un articolo di pochi giorni fa, che insomma in base a tutti questi miliardi spesi per organizzare queste Olimpiadi, si parla di 2 miliardi, però cioè in realtà forse ancora un po' di più. Scusate, si sente. base a questo tutti questi sì. Abbiamo un po' di problemini di cavo e in base a questi biliardi c'è spunta anche la scuola calabrese, insomma quella che era stata vincitrice del bando che aveva organizzato il Comitato Olimpico per diciamo realizzare le due mascotte. Quindi ha vinto una scuola calabrese e come compenso, perfettamente in linea con i 2 miliardi spesi, io pensavo gli avessero dato 35 euro, in realtà gli hanno regalato due mascotte dal valore di 35 euro e in più qualche bandierina, qualche gadget, quindi diciamo che se da una parte sono usciti tantissimi soldi, dall'altra parte, come spesso succede in queste grandi manifestazioni, la forza lavoro non viene corrisposta in ugual modo, ecco. Quello che cerchi in una casa è spazio, luminosità, una zona residenziale, del verde attorno, un bel terrazzo, un box per l'auto, il tutto ad un prezzo stracciato. E quanti cavoli, non lo so, la vuoi anche già mobiliata, magari con qualche quadro d'autore, che so, un Picasso, un Van Gogh, un servizio danza del ventre magari, a domicilio. E poi, mi raccomando, collocata nel centro storico, anzi guarda, la paghi a babbo morto, quando ti pare, senza interesse, ma per favore, è arrivato cosa, è arrivato. Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Prova il microfono! Esatto, adesso voi due! Siete caldi? Yeah! Avete spostato la macchina? Yeah! Anch'io! 1, 2, 3, 4! Esatto! Esatto! Esatto! Esatto! Facciamo! State attenti alle parole, scandirle! Esatto, era la prima volta, mi sa che anche l'ultima. Il gallo, poi, mi raccomando, essere più chiari, perché anche il testo... ragazzi, ma con cosa vi allettiamo le orecchie? Cosa abbiamo tirato fuori da Sanremo? Francesco Salvi del 1989. Ci dimenticavamo un piccolo addentellato, per cui in redazione doveva fare uno stacco pubblicitario e raddentellato agli studenti che hanno preso 35 euro per fare il logo delle Olimpiadi invernali italiane. La pandemia ha sconvolto le nostre vite, cambiando radicalmente il mondo. Vecchi lavori sono morti, ma nuovi lavori stanno nascendo. Ed è per questo che abbiamo inventato Schiavo, la nostra nuova app. Hai fatto la spesa, ma ti sei dimenticato una cosa fondamentale? Oh no, ho fatto la spesa e ho dimenticato una cosa fondamentale. Da oggi per te c'è Schiavo. Schiavo! Il primo assistente personale, analogico e digitale. Ma c'è? Senti, ho sete. Quando arrivo al supermercato a prendere una bottiglia d'acqua? Già che ci sono, prendo una cassa intera. Cosa sono, un cammello? Prendi una bottiglia, poi domani ne prendi un'altra. Schiavo sarà entusiasta di aiutarti in tutte le tue necessità. Sei a casa in smart working e hai una curiosità impellente? Schiavo! Con Schiavo ogni tua curiosità sarà soddisfatta. Cosa c'è? Senti un po', ma che tempo fa a Pescara? Che cazzo ne so che tempo fa a Pescara, guarda su internet. Schiavo. Cioè devo andare a Pescara? Schiavo è sempre disponibile, H24 e 7 giorni su 7. Così. Ok, sì. Comunque a Pescara c'è il sole, cioè c'era il sole stamattina. Ma c'è 7 ore di viaggio. Ma non mi interessa più. Come mi interessa più? Schiavo, spegni la luce. Ma Schiavo può esserti utile in tantissime altre cose. Farti aria quando fa caldo. Schiavo, perché ti blocchi? Sbrogliare gli auricolari col filo, anche se usi quelli senza filo, oppure usarlo come poggiapiedi. Vibra! E per il primo mese avrai uno Schiavo gratis tutto per te. Scaricalo subito. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Lo Schiavo non conosce i suoi diritti, ma attenzione agli aggiornamenti. Non si risponde in caso di malattia, guasti o rivolte di classe. Quante volte, passeggiando per la vostra città, vi siete trovati in una situazione come questa? Degrado, sporcizia... Droga! Ecco, due calci in faccia, se parla ancora altri due calci in faccia. Sto scherzando! Noi delle forze dell'ordine abbiamo a cuore anche il drogatello. Droga? Serve droga? Sta un filo esagerando, ma per fortuna stanno arrivando le forze dell'ordine. Chissà come si comporteranno questi luridi sbirri assassini, aiuto! Signor Drogatello, buongiorno! Buongiorno a lei! Droga, droga, vendo droga, volete droga? Stiamo un po' esagerando, signor Drogatello. A malincuore dobbiamo chiedere i documenti. Educati? Ho solo la bamba. Male! L'assunzione prolungata di cocaina provoca danni cardiaci, infarto del miocardio, angina, aritmie. Per non parlare poi delle complicazioni neurologiche. Vertigini, cefalea, ischemia, infarti, emorragie. Premurosi. Che cazzo! Dio, spiriti di merda, io vi ammazzo! No. Sappiamo benissimo che lei è in questa drammatica situazione per colpe non sue. Cattiva educazione, instabilità affettive, perdita del lavoro. Comprensivi. Noi delle forze dell'ordine, esclusi pompieri, siamo qui per dirle che lei può cambiare. Si ricordi, se io posso cambiare, tutto il mondo può cambiare. Puoi farcela, ragazzo. Puoi farcela. Grazie, signori poliziotti. Io non voglio più drogarmi. Io odio la droga. Sì. E voglio fare il poliziotto. Sì. Voglio essere come voi. Mi hai quasi commosso, ragazzo. Vieni qua. Benvenuto a bordo. E andiamo. A Milano l'inchiesta sulla morte del pusher ucciso da un poliziotto a Rogoredo si scava nella vita della gente per ricostruire la dinamica dei fatti. Gabriele Carletti. Era un teoforico questo. Questo è Carmelo Cinturrino, tra i palazzoni del Corvetto. Lo conoscevano come Luca, un secondo nome per una doppia vita, perché le testimonianze al vaglio degli inquirenti descrivono un agente che chiedeva il pizzo a spacciatori e tossicodipendenti e conosceva bene Abderrahim Mansouri, il pusher marocchino di 28 anni ucciso nei boschi dello spaccio a Rogoredo. Abderrahim era terrorizzato da questa persona e che all'inizio lo voleva appunto anche denunciare. Gli avevo consigliato di acquistare una telecamera per registrare tutto quello che si stava verificando. All'inizio lui aveva consentito, per poi invece prendere un altro appuntamento presso il mio studio e dire che aveva cambiato idea, che non voleva più fare nulla, perché aveva veramente molta molta paura. Il poliziotto avrebbe preteso da Mansouri 200 euro e 5 grammi di cocaina al giorno, il prezzo per spacciare liberamente. Accuse, chiarisce oggi il legale dell'agente, a cui replicherò quando avrò la possibilità di leggere le deposizioni dei colleghi e di riparlare con l'assistito. Certo è che la versione di Cinturrino, ho avuto paura e ho sparato, appare sempre più debole. Anche i colleghi indagati per favoreggiamento lo avrebbero scaricato. Deve rispondere di omicidio volontario, e di quel ritardo di 23 minuti prima di chiamare i soccorsi. L'hanno lasciato lì morire come un cane. Netta, anche quando le chiediamo se questa inchiesta sarebbe stata possibile se fosse già in vigore lo scudo penale per le forze dell'ordine. Non sarebbe mai stata possibile, non sarebbe mai iniziata. Allora ragazzi, questa è la versione del TG3, ormai in mano leghista, quindi è una versione di stato degli accadimenti che sono successi a Rogoredo, non è un'invenzione di Pillola Rossa, è la versione ufficiale, noi non abbiamo aggiunto né tolto niente, vi abbiamo fatto sentire una sintesi di cosa siamo arrivati oggi. Sì, abbiamo affrontato questo argomento da settimane, alla fine si è giunto un po' a questa conclusione, cioè conclusione non lo è ancora in realtà, no, però è già un buon punto, ecco. Allora, queste sono le famose forze dell'ordine, no? Ma è inutile che stiamo qui a ripeterlo, torniamo a Sanremo. Andavo per le strade di quartiere, io con un penale tutto da pulire, io che non la davo vinta neanche morto, io che mi hanno sempre tolto il passaporto. Io, le donne, mille corpi e nessun cuore. Io, che ormai mi stavo già lasciando andare. Io, di notte in giro in rete disperati. Io che ho sempre riso degli innamorati, ma adesso ci sei tu qui con me ed io non rido, ma al contrario vivo te. Ora che ci sei tu e ci sei, prendo il momento come meglio non potrei. Coi guai che mi potevano far male, a vivere ma senza respirare. Io, con tanto di passato da scordare. Allora, qualche messaggio arriva in redazione, Pillola Rossa. Allora, c'è un ascoltatore che chiede, ma per le paraolimpiadi cambiano gli sbirri con dei parasbirri? Canto te quando non ci sei tu, io resto qui, l'amore cambia. Sempre i nostri ascoltatori fanno una citazione colta. Arriva un Cortina, Sanremo, Rogoredo, distruzione di massa, urca. E voglia di cantare, canto te, quando non ci sei tu, io resto qui, l'amore cambia un uomo, così, a così. Allora, dovremmo avere l'opinionista in linea. Eccolo. L'opinionista di Sanremo c'è. Sì, Satana. Eccoci. Pronto, Satana. Ci senti? Nutri. Non c'è Satana. Satana al momento. Satana. No, al momento non è previsto in studio. Sì, Satana è passato e non lo tocchiamo più. Ha detto una cosa, va benissimo. Non lo tocchiamo più. Prego, il nostro opinionista su Sanremo, Nutrio, possiamo darti la parola? Vai. Non c'è più. Dobbiamo richiamarlo. Non c'è più, è scomparso. Ci proviamo. Sì, Satana. Ok, siamo in linea. Ci senti? Ok. Allora, cioè, ci stiamo lottando col cavo. C'è un problema tecnico, l'abbiamo risolto. Vai. Io ti adesso. Perfetto, perfetto. Chiaramente come Sanremo. Ok, è dire tanto. No, dico, è già è dire tanto che ci senti come Sanremo. Ah, sì, ma io sono costretto a vederlo perché la mia socia lì, la poetessa, lei è fanatica e quindi... E quindi un giudizio su questo? È un modo per studiare l'evoluzione umana, cioè Sanremo. Esatto. Adesso siamo arrivati che praticamente è un funerale in diretta, cioè... Quindi praticamente si allinea allo svolgimento delle... Pronto? Pronto? Pronto? Praticamente ci stiamo allineando a quello che succede sul pianeta, no? Un funerale di massa. Esatto. Stasera c'è la Vanoni, ieri c'era Pippo Baudo, poi hanno messo quella lì di 106 anni, che secondo me c'è stata un'interruzione di linea perché deve avere detto qualcosa come di sbagliato, hanno tagliato 20 secondi. Di aver detto che quando c'era il Duce. Cos'è che hanno detto? Scusa? Cos'è che hanno detto? Poi senti. Sì, no, non ho capito l'ultima, ho capito Duce. Pronto? Qui allora... Belluno si diverte con i tasti. Ok, no, abbiamo un po' problema col telefono, quindi devi parlare al microfono. Diamo, diciamo, il parla pure tu. Parla pure tu, così almeno adesso non riusciamo tanto a interagire, così, perché sennò non si sente in radio, diciamo, più che altro. Su Sanremo, intendi? Sì. O su quello lo stronzo di Rogoredo psicopatico. No, eravamo rimasti a Pippo Baudo che è morto e la Vanoni che c'ha 102 anni, quindi stavamo parlando di un festival funerale di cadaveri. Sì, no, ieri c'era anche una di 106 anni che era ancora viva, ma che non si è ben capito se l'hanno tagliata un po' perché deve aver detto qualche frase fuori luogo, figurati se conti. Magari ha detto viva il Duce, poi dopo hanno tagliato per 20 secondi la trasmissione, poi ha detto viva la Repubblica, ma la devono avere magari mazzolata al momento, devi dire la Repubblica, non il Duce, una roba così. Quindi in realtà morti, ultracentenari e funerale in diretta. Esatto, e poi la cosa più incredibile, adesso stanno facendo i giovani, no? Cioè, tra i partecipanti al concorso giovani c'era uno che faceva questa canzone, è un immigrato, è un immigrato, è un immigrato. praticamente ha perso perché non suonava bene, no? Poi qualcuno è andato da questo qui e gli ha detto: guarda che se invece di Immigrato metti Sanremo ti prendiamo la canzone e te la facciamo diventare il tormentone di Sanremo. Io ho sentito così, ma credo che sia vero. Cioè, questo qui ha cambiato la canzone, invece che è un immigrato, è Sanremo lì, questa qui che c'è adesso, che mettono a loro ogni momento, no? Sì, ci fai da referente perché non abbiamo visto, ma ti crediamo sulla parola, sei l'opinionista. Cioè, ogni volta mettono il tormentone, come l'anno scorso c'era quella di Gabri Ponte, quest'anno c'è un'altra che mettono come tormentone. Se guardi un po' la trasmissione ti entra in testa, no? Era una canzone che diceva cioè adesso dice è Sanremo, e invece la canzone vera diceva è immigrato. Scusa, una domanda, ma tu saresti d'accordo nel classificare Sanremo come le Olimpiadi, come arma di distruzione di massa? Io per me sono tutti, cioè le Olimpiadi, vabbè, un discorso a parte, perché comunque lo sport a me piace, però lo sci mi piace, però Sanremo è proprio una pillola, un valium di massa, cioè una roba. Poi questo qui è proprio, cioè c'è, manca solo che mettono la Meloni sullo sfondo che tira i fili siamo direttamente al Consiglio dei Ministri, cioè allora, mai una parola fuori luogo, cioè, allora nessuno poi qui è contro lo sport, vorrei sottolineare questo fatto, nel senso delle Olimpiadi, proprio il devasto della città e quello che è stato regalato alle multinazionali, che era proprietà del Comune di Milano e quindi dei cittadini, ed è stato regalato a tanti affaristi senza scrupoli provenienti da tutte le parti del mondo, più altre cose, ma continueremo ad aggiornarvi. Credo che sia la non tanto una novità quanto la triste realtà che noi siamo la periferia della periferia della periferia dell'impero, di quel pazzo, cioè, ma neanche pazzo, di quel coglione lì che guarda sempre da una parte, che se non si capisce è tronfio come una tromba. Del resto si chiama Trump. Sì, una periferia importante per loro, comunque ci tengono che siamo molto burattini. Ma se noi siamo accodati a uno che praticamente invade il Venezuela per rubargli il petrolio e poi rivendercelo a noi a più prezzo, qui chi è che deve comandare? I comunisti, cioè facciamo i comitati operai delle fabbriche che non esistono più, tra l'altro, in Italia da chissà qui, perché non c'è neanche più quando c'erano le Brigate Rosse, che con tutto il rispetto saranno stati i compagni che sbagliano, ma hanno sbagliato neanche tanto. Però questa è un'opinione personale. Insomma, un po' come la guerra in Ucraina che gli americani hanno scatenato, e adesso al posto che il gas russo compriamo il gas liquefatto dagli USA a tre volte tanto. Scatenato gli americani la guerra in Ucraina, non lo so. Comunque compriamo il loro gas a tre volte tanto, questa è la realtà dei fatti, e non compriamo più a tre volte meno quell'altro. E tra l'altro viviamo in economia di guerra da 4 anni, quindi è aumentato tutto del 30%, 40%, non so se ce ne rendiamo conto, le bollette, il supermercato. Oggi all'Esse Lunga, che non c'entravo da parecchio, mi sono venuti la pelle d'oca soltanto perché io ho la memoria fotografica, cioè mi ricordavo dei prezzi, ho visto tutto salire proprio a occhio, no? Così, proprio uno sguardo rapido, se ho visto proprio un aumento mostruoso, ma io non ci vado quasi mai, cioè, va bene. E allora ti ringraziamo per questa opinione su Sanremo che è stata incisiva e ti salutiamo, arrivederci a presto. Va bene, grazie. Ciao Nutrio, grazie. Oggi il collegamento è andato un po' a casaccio, però ci manca il tecnico. Ci manca il tecnico, Ci manca il tecnico. Sì, no, ma non ti preoccupare, io dico quello che penso io, non è che deve essere per forza mia, deve essere condiviso, cioè io sono per lo più chiudo, cioè Sanremo non è che te lo devi guardare a tutto, però un po' bisogna guardarlo per capire dove siamo arrivati. Devi conoscere il nemico. Antropologia. Per capire a che stadio di addormentamento ci stanno portando mentalmente. Cioè, assolutamente. Grazie Nutrio. Grazie Nutrio. Un saluto. Ciao, grazie. Vai. Ciao. Su queste sabbie nere, su queste sabbie. Al mare, in fondo al mare non andare. Allora, questo era Alberto Beltrami in un Sanremo del 1980. E vogliamo sentire l'imperatore che cos'ha ripescato dalla cistifeglia ingrossata del paese? Allora, caro Muki, oggi parleremo di un argomento quindi molto interessante, le zanzare a novembre. Adesso siamo a marzo e le zanzare stanno tornando, ma fino a novembre ce l'abbiamo avute, non se ne vanno mai via. Quindi cos'è successo al nostro ecosistema? Cos'è successo alla nostra fauna? Beh, io una versione ce l'avrei e purtroppo mi trovo costretta a prendere atto che qui c'è un flusso migratorio continuo da paesi anche molto molto caldi e se ce ne siamo resi conto, questi flussi migratori stanno influenzando anche il nostro clima. Ad esempio il caldo africano in Italia non c'è stato mai e adesso ci troviamo a vivere in stagioni estremamente calde, quindi questi extracomunitari ci hanno influenzato anche il clima. Per forza che ci sono le zanzare a novembre, è ovvio che ci siano le zanzare a novembre, perché appunto sono arrivate a influenzarci anche il clima, ma vi rendete conto? Ma tu come ti chiami? Rainer! No, dai, oh, come ti chiami? Alberto. Alberto, ci sarà un modo per uscire di qua, ti prego. Mauro, ma se lo sapessi, io starei qui a rastrellare tutta la vita questo prato. Però un modo c'è, eh? E qual è? Qual è? È quello di far saltare il tavolo. E che cazzo devo fare? Hai qualche scandalo alle spalle? No. Molestie sessuali? No. Discriminazioni? No. Ti sei masturbato davanti ai ragazzini? Ma che cazzo di... No, ma no, sono una brava persona. Una brava persona, Mauro, dove vuoi andare? Allora, Mauro, non resta che andarli dentro e dire tutte le parole che non si possono più dire. Ma parole tipo... Tipo? Tipo ri... È molto rigoglioso il prato, vero, signore? Altro messaggio che arriva in redazione, cito testualmente: Sanremo senza Pippo Baudo è come una figura di merda senza Salvini, non esiste. La premiata Fonderia Marconi, dal giornalismo, dalla televisione, sono comici, attori famosissimi, eccetera, e si sono messi assieme e hanno creato questa tribù stupenda, impazzita, divertentissima. E la volta con le Coconuts, il famoso di Kid Creole, i figli di Bubba ci canteranno nella valle dei timbales. Si sono introdotti da soli, eh? Fugace, ora laggiù. Con le dita nel naso, la lenzuola di Rauco e il mio amico Tommaso. Laggiù, senza colpo ferire, a sdraiarmi e dormire, e pensare un po' a voi. Laggiù. Ciao, sono Rebecca, del Ministero della Natalità. Il governo attuale mette la difesa della vita al primo posto e di conseguenza è in prima linea nella lotta alla pratica meschina ed egoista dell'aborto. È giusto colpevolizzare la donna per una scelta che alcuni dicono dovrebbe essere personale? Sì, è giusto rendere l'aborto un percorso tortuoso, quasi impossibile da portare a termine, con burocrazie e complicazioni interminabili? Beh sì, è giusto far sentire il battito del cuore alla donna per convincerla a non abortire. Sì, è giusto dare una mancia, un 100-120 euro, alla futura madre per fare la scelta giusta? Sì. È giusto, infine, mostrare il cadavere e organizzare successivamente il funerale al feto? Eh sì, ma questo non è sufficiente. Perché noi donne siamo decoccio e allora bisogna andare oltre, bisogna andare all'origine del problema. Ed è per questo che il Ministero della Natalità ha pensato e creato i funerali dello sperma. Perché anche lo sperma è vita. In nome del Patris et Filis et Spiritus Sanctus. Amen. Funerale dello sperma. Perché la vita inizia prima. Ma prima. Prima, prima. Prima. Allora, eventi o cosa c'è da fare in giro? Allora, per quanto riguarda, diciamo, i concerti, abbiamo segnato qualche cosa che è un po' esterna alla Lombardia, quindi diciamo un po' a random qualche concerto qua sparso nel nord Italia di qualche gruppo che abbiamo messo anche ultimamente, che sono, vabbè, i Sic Tamburo al Druso, Aranica, dalle parti di Bergamo, i BBC che abbiamo visto al Bico, band comunque veneta se non sbaglio, suona a Padova, tutto questo giovedì, quindi domani suonano anche i Devils, con cui abbiamo aperto la scorsa settimana, suonano a Ossi in provincia di Sassari, e gli Alpaca sono venerdì dalle parti di Pordenone. Vorrei aggiungere le Giardiniere, che mercoledì 4 marzo alle 18.30 fanno una pericena di gala civile in via Mengoni 3 a Milano. È un'iniziativa per sostenere i cittadini che vogliono costituirsi parti civili contro l'abuso edilizio delle torri dell'AC nel Parco delle Armi. Questo è il pezzo, diciamo, più recente che mettiamo oggi. E vai. Nonché il più conosciuto. E fa il cameriere, l'assicuratore, il campione del mondo, la baby pensione. Fa il ricco di famiglia, l'eroe nazionale, il poliziotto di quartiere, il rottamatore. Una vita in vacanza, una vecchia che va. estetista e fai laureato e fai il caso umano, il pubblico in studio, fai il cuoco stellato e fai l'influencer e fai il cantautore, ma fai soldi col poker. Perché lo fai? E fai l'analista di calcio mercato, il bioagricoltore, il toy boy, il santone, il motivatore, il demotivato, la risorsa umana, il disoccupato. Perché lo fai? Perché non te ne vai? Una vita in vacanza, una vecchia che parla, niente nuovo che avanza, ma tutta la pazza che suona e che canta per un mondo diverso. Libertà e tempo perso, nella gioia e nel dolore. Fare soldi per non pensare, parlare sempre, non ascoltare, ridere per fare male, fare pace per bombardare, partire per poi ritornare. Una vita in vacanza, una vecchia che balla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta per un mondo diverso. I costi complessivi delle Olimpiadi che sono svolte e si stanno svolgendo a Milano sono dai 5,7 ai 5,9 miliardi di euro. Meno di un terzo è stato investito nelle competizioni sportive. Il resto se n'è andato in infrastrutture, alle strade, alle piste, ai villaggi. L'impatto quindi, se è calcolato un più o meno 2 miliardi di euro che sono anche finiti in anidride carbonica, chiaramente, perché ci sono tutti i vari spostamenti da un posto all'altro che vanno a coprire tutte queste gare che vengono fatte. Facendo un attimo una storia breve delle Olimpiadi, se volete, tanto lo diciamo subito, Arebu non c'è stasera, quindi potremmo anche sforare le ore 10 perché non manca la trasmissione successiva che ci sarà settimana prossima. Detto questo, le Olimpiadi partono nel 7, leggo testualmente, chiaramente partono nel 776 avanti Cristo i giochi olimpici nell'antica Grecia per onorare Zeus, quindi sospesi in epoca romana, rinascono poi Atene a fine del 1800, quindi 1896, grazie al barone francese Pierre de Coubertin. Allora, dovrebbe essere il pacifismo sostanzialmente il valore intrinseco e il simbolo delle Olimpiadi, perché insomma in epoca antica si stoppavano guerre, si stoppavano conflitti e si metteva tutto in pausa. Qui cinque cerchi chiaramente sono ai cinque continenti e la politica è sempre stata esclusa, almeno fino a un certo punto, perché già ad Anversa nel 1920 Il Comitato Olimpico esclude le nazioni sconfitte nella Prima Guerra Mondiale per evitare la presenza tedesca. Nel 1936 Hitler sfrutta i giochi olimpici a Berlino per propaganda. A Melbourne nel 1956 Cina boicotta per la presenza di Taiwan. Egitto, Libano e Iraq contro la crisi di Suez. Olanda, Spagna e Svizzera per l'invasione sovietica nell'Ungheria. E nel 1972 a Monaco c'è la famosa irruzione del gruppo palestinese Settembre Nero. In Sudafrica, questa cosa l'abbiamo detta anche l'altra volta, l'apartheid praticamente ha fatto escludere dai giochi il Sudafrica dal 1964 fino al 1992. Tutto questo per dire, come abbiamo detto ultimamente, che l'ultima volta che ci sono state delle nazioni che non hanno partecipato, hanno boicottato, c'è stato un comitato olimpico che ha deciso di escludere la Russia, ma che non ha deciso di escludere Israele, che sostanzialmente è un'altra grande guerra in atto. E ricordiamo, a corollario e parlando di economia oltre che di politica, che lo sport amatoriale praticato per passione e non per guadagno è l'unica attività sportiva ammessa alle Olimpiadi moderne. Questo è il diktat che era stato imposto tempo e tempo fa. A proposito di Olimpiadi, cito dai documenti ufficiali di internet. 9 febbraio 2026. Scrivo questa lettera come sindaco di Buccinasco, ma prima ancora come rappresentante eletto di una comunità che ieri sera è stata completamente ignorata, esautorata e messa da parte. Nella serata di ieri il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, si è recato a cena presso un ristorante di Buccinasco, un evento che ha comportato la presenza di 54 SUV militari di scorta più una cinquantina di mezzi delle forze dell'ordine italiane. Con strade chiuse, una città di fatto bloccata, cittadini impossibilitati a rientrare nelle proprie abitazioni. Il sindaco di Buccinasco non è stato informato in alcun modo da nessuno. Mi chiedo e chiedo pubblicamente, è questo il rispetto istituzionale tra Stato e autonomie locali? È normale che un sindaco eletto dal popolo venga messo nelle condizioni di non poter svolgere le proprie funzioni? Perché? Non si invochi la segretezza. La notizia era di dominio pubblico, l'unico a non sapere nulla era paradossalmente il sindaco della città coinvolta. A questo si aggiunge un dato che non può essere taciuto. Da anni chiediamo una maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio, da anni non riceviamo risposte. Eppure, ieri sera, oltre 100 mezzi hanno presidiato Buccinasco in poche ore. A noi, per migliorare la sicurezza e la qualità della vita dei residenti, basterebbe anche un solo mezzo in più, stabile, quotidiano, uno solo, per non avere più problemi. A questo si aggiunge l'amarezza per quanto scritto dal giornale La Repubblica, che nel dare la notizia sente il bisogno di citare Buccinasco esclusivamente per la sua reputazione mafiosa. Non vi vergognate? Perché non raccontate invece della lotta decennale di questa amministrazione alle mafie, dei percorsi di educazione alla legalità e le iniziative nelle scuole, delle minacce di morte ricevute proprio per questo impegno, della gestione virtuosa di tutti e 30 i beni confiscati alle mafie e riutilizzati per fini sociali? Buccinasco non è lo stereotipo che fa comodo evocare. Buccinasco è una comunità che resiste, che combatte, che paga un prezzo alto per la legalità e che meriterebbe rispetto, non etichette. So bene che questo mio sfogo probabilmente non servirà a nulla, so che qualcuno sorriderà con ironia, forse con fastidio, ma io ho il dovere di farlo, perché difendere Buccinasco è il mio compito, e se non lo fa il sindaco, non lo farà nessuno. Rino Pruiti, sindaco di Buccinasco. pronti, partenza, via. Parcheggi abusivi. Villette abusive, abusi sessuali abusivi. Tanta voglia di ricominciare. Abusiva. Appalti truccati, trapianti truccati, motorini truccati che scippano donne truccate. Il fisicista delle mire è truccato. Papale di papi, la donna cannolo, una lacrima sul visto, Italia sì, Italia no. Italia sì, Italia no, Italia boom, la strage punita. Cacchi, 1996, stavamo discutendo qua in studio quando ancora Elio e le storie attese davano qualcosa di positivo alla società italiana. E di positivi anche queste notizie che illustrano un po' l'arma in questo periodo, che sembrano saltare fuori tutte insieme, quando c'è un caso che saltino fuori tutte insieme, non lo so. Rubavano vestiti e profumi dalla Coin di Termini, indagati 21 poliziotti e carabinieri, in realtà sarebbero 9 poliziotti e 12 carabinieri. Danno per 300.000 euro. No, cosa facevano? Praticamente rubavano i capi dal negozio Coin di Termini con la complicità di un dipendente, e in cambio portavano mozzarelle e gadget. Ma da Voghera invece, l'ex assessore leghista Massimo Adriatici, con delega alla sicurezza del comune di Voghera dal 1995 al 2011, ufficiale di polizia, settore anticrimine, docente di diritto penale, nonché avvocato e titolare di un noto studio legale, si è beccato 12 anni di carcere per l'assassinio a mano armata di Yunus El Boussetawi. Aveva anche rispolverato il DASP urbano per allontanare le persone sgradite e multato due mendicanti che chiedevano l'elemosina in Piazza del Duomo, e da assessore aveva proibito ai bar di conservare in frigo bevande alcoliche di qualunque tipo e gradazione, contro l'abuso d'alcol. Questo a proposito di scudo penale. Forza dei disordini. Domani c'è consiglio comunale. È grande la voglia di battagliare. Delibere, dibattiti e commissioni, ma già sento sotto girarmi i marroni. La mia coscienza, vigile guardiana, mi invita ad essere probo e corretto, ma la tasca dolcemente mi sussurra d'essere rapace e furbetto. La lotta è impari e la voce della tasca inconsciamente accetto. Meglio aver la tasca piena che la coscienza silente. Dell'elettor gabbato non me ne frega niente. Allora, spieghiamo. Allora, stop un attimo, perché facciamo una mini spiega di questa canzone uscita nel 1993 a Sanremo, dove, non so come dire, tutto era ancora possibile, perché il testo adesso probabilmente l'avrebbero tagliato assolutamente. Grande voce, però parla di qualcosa di che assomiglia tanto alla pedofilia, secondo me. Ragazzi, Sanremo 1993, che poi, cioè, dicono, insomma, non si censurano neanche loro qua. Esco dal portone e poi via, sei sempre sotto lì casa mia, che sventolo mi guardi e vai via, e poi ti giri, mamma mia, e mastichi qualcosa, cos'è, a cos'è, andiamo al bar e prendo un caffè, tu prendi tante caramelle, ti guardo e sento i brividi a pelle. Non squillo, già lo so che sei tu, yeah. Mi pensi, io ti penso di più, oh no. Hai 16 anni, ma guarda tu, ormai li ho passati da un po', ma tu mi piaci troppo, però, yeah. Mangi troppe caramelle, gnam gnam gnam, scappi e lasci i brividi a pelle. Questo era Leo Leandro nel 1993 con Caramella. Prima del funerale lo sprofondo. Da lontano partiva lo sprofondo, raga. Assolutamente. Cominciamo da qui il nostro discorso sulla birra. Scegliere la birra è già una scelta intelligente. Comprarla con il vuoto a rendere è più intelligente ancora, perché non si fanno sprechi e si risparmia. Si spende meno e se ne compra di più. E poi parliamo di quando la bevi. Adesso, per esempio, non posso permettermi di ritrovarmi rimbambito dopo mangiato, ho da fare, devo andare a lavorare, e mi bevo la mia birra, che è la più leggera delle bevande alcoliche. Oppure adesso, per festeggiare il fatto che non sono aumentato neppure di un etto e sono in perfetto peso forma, mi bevo la mia birra, che non ingrassa perché ha pochissime calorie, meno di un succo di pompelmo, lo sapevate? Ah, oppure adesso che devo avere sprint e mente lucida. Date retta, se ci tenete al peso forma, alla mente lucida, a vivere con sprint, andate tranquilli con la birra. Proprio così, se vuoi andare forte, vai piano con l'alcol, vai con la birra. Meditate, gente, meditate. Era l'epoca dove tutto era possibile, no? Anche l'alcol era ben voluto dalla società. Anche la birra. Anche la birra. Passiamo alla rubrica di poesie. Ok, sì, siamo in chiusura. Ci dilunghiamo un po' di qualche minuto oggi che non c'è Arebu. E la nostra rubrica dentro la pillola rossa con la doppietta di Valentina e il Nutrio e niente, non spieghiamo niente perché tanto spiegano tutto loro. Poems, everybody, poems, poems, everybody, poetry, poems, poetry, poetry, momento poetry. Poems, everybody, poems. Ciao a tutti, saluto gli ascoltatori di Radio ZAM. Lasciatevi trasportare da questa nuova onda poetica per ascoltare i miei scritti del giorno. Vi trasporterò in un'atmosfera surreale, dove la luce dei metalli si tramuta nello splendore di un paesaggio naturalistico e quella lunare in magia. Accanto a me il Nutrio Mannaro con i suoi testi. Non poteva mancare con la luna piena. Benvenuti, buon ascolto, Valentina Cavera. Oro. Come la luna nei campi, germoglia il grano, che si fa stelo di vento per non rimanere nell'ombra e divagare, ma mietere di luce indossando le sue ali di rondine. Zingarella. Quanto è gelida la strada a volte, sotto il soffitto d'amari pensieri, nelle acri radure di silenzi, accovacciati nel vuoto che non ha svolte. È soltanto follia di librare scalza nelle notti della vita per guardare in faccia la luna, bianca, di spuma, e quella civetta che in gabbia non vuol stare. Buonanotte cari amici di Radio ZAM, da Pietro il Nutrio Mannaro, che sotto questa luna a forma di mezza pastiglia, come al solito, vi osserva e trae le sue conclusioni. Buon ascolto. La luna è rossa e cala sui tetti alle 4:30 di una notte qualunque. E io non ho sonno. Illusi, che illusi gli occhi, tutto il resto di noi si è illuso, continuiamo ad ululare alla luna, disperati. Thank you. questo è il rumore della luna, eh? Il rumore della luna sottolineerei satellite. Ringraziamo per la mini rubrica poetica. Tolgo un po' di luna, eh? Togli un po' di luna? E niente, ci vediamo alla prossima puntata. Ragazzi, è stato bello, come sempre affaccendati di fretta, non riusciamo mai a essere così shanty bomb come volessimo. Mille notizie, mille cose da dire, tutte quelle che riusciamo nello spazio di questo tempo. E niente, sigla. Un salutone a tutti. A mercoledì prossimo. Ciao. La rossa la si ingoierà, dillo la rossa vuoi la verità, dillo la rossa siamo ancora qua, viva le radio libere la verità. Radio Popolo alla riscossa, pillola rossa, pillola rossa, radio libere alla riscossa, pillola rossa si ascolterà mercoledì, zam zam. Ce la fai a reggere la canna?